tre parti divise l'ore del viver tuo. Misura e vedi, vedi il tempo caduto, vedi ingrata il rifiuto dei lumi eterni e vedi il proprio errore. Vedi il presente che nascendo muore. Di là, dal denso velo, ove giace il futuro, se tuo guardo non scopre il vano,